a clear kingdom. All of this shine is the symptom. Ready, more than ready for this rhythm. Keep our cars closed, keep them hidden. Navigate streets though they murky. Never stop cause our enemies are thirsty. And survive off the power that's within we. Only rations but we never run on empty. Never underestimate a moon. We can show you only half a June. Even show up in the sky at noon. Filling up the room, hidden face like doom. Now we're hoping that the sun will come up. So we're visible and no longer stuck. They ain't ready for this thing to erupt. Coming for the corrupt, power shift is abrupt. Cross into my town and be cautious. Land of the lawless. As we leave you lingering for less until you're nauseous. Hope that you ain't porous. Soaking up a chorus. Weighing down with apathy, then set you up a quorum. Nothing here is for us, so be good and ready. Set that universal credit, getting both for heady. It's survival of the richest and they rich already. The lyrics I'm acting on, I'm kicking music up and ready. Not be tamed, though we're overlooked, never undercooked. Yeah, you know we're seasoned. Even from the back, we can tell they're whack. Though we have no seat, they cannot compete. Calibre isn't even. Take a look around before I shut it down. Do your pictures now, so that when I take it over, you can post them. Happy to announce my booking amount has increased geometrically just from this here bar. So acclimatized when the time's right. Deep breath in with the sulfur in your eyes. Too late now is my honest advice. That's unless you're ready to embrace my light. Either way, the time's up. This is in your ear, this is in your speakers. This is in your friend's car without any features. This is in a big movie with some creatures. So no matter what I do, you're my new believer. Qua bentornate, bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Pensavate ci avrebbe fermato il coronavirus, che ci avrebbe fermato il maltempo? E invece no, siamo sempre qua con solo un'ora di ritardo. Sì, tanto lo sappiamo solo noi l'ora giusta a cui andiamo in onda, perché cambia sempre, quindi alla fine tra le 9:30 e le 10:30 che dovete fare? State lì, ascoltate, sperando che qualcosa accada. Forse, non ne siamo troppo sicuri. Mi sa che abbiamo un problemino col microfono. Controlla che il tuo microfono sia acceso, secondo me sto parlando da solo. Eccoci, scusa. Ecco, allora, è così. In realtà avete sentito un attimo di silenzio, ma non perché parlo da solo, non sono da solo questa sera, ma perché il microfono del mio socio quasi solito era spento. Sì. È così, cioè, qualcosa ci riesce a fermare. La tecnologia, sta stronza. Sì, tanto sì, tecnologia analogica proprio si ferma. Infatti noi oggi partiamo, il nostro primo argomento è un argomento molto in voga, parleremo di intelligenza artificiale, stimolati sostanzialmente da un articolo che è apparso sull'Internazionale di 2 settimane fa, credo, e dal titolo sembrava un casino promettente, che era "Chi controlla l'intelligenza artificiale?". Poi l'abbiamo letto ed è stata un po' una delusione, perché alla fine non c'è scritto chi controlla l'intelligenza artificiale. No, era fondamentalmente un'introduzione molto molto molto lunga. Era... Cioè, cosa dice? Cioè, quello che ricordo, io l'ho letto 2 settimane fa, poi non l'ho ripassato. No, vabbè, fondamentalmente, cioè, ripeteva una premessa giusta, cioè che l'intelligenza artificiale rappresenta fondamentalmente cioè una perturbazione dello status quo, quindi nella misura in cui si basano le scelte future su un'analisi dei dati passati in maniera ostentata e poi sicuramente sul fatto, anzi questo era il fatto principale, che fondamentalmente tutto il machine learning, l'intelligenza artificiale si basano su dei precetti statistici e che quindi definire ciò che è di successo in termini statistici in verità è piuttosto soggettivo, cioè può essere il risultato magari definito un target di successo, può essere oggettivo, però a seconda di quello che io definisco come successo statistico. E questo qui è un giochino che tende a far credere alle persone appunto che queste tecnologie siano oggettive quando sono tutt'altro che oggettive, proprio perché sono pilotate comunque sia da delle definizioni umane, insomma, ecco. Molto soggettivo. Sono ricascate nella classica cosa che dice dei sondaggi, ok, dipende però da come mi fai le domande, dipende da come interpreti i dati. Vabbè, ma è la verità. E sostanzialmente, no, infatti, però e quindi anche nell'intelligenza artificiale. Certo, è la verità in questo caso, è veramente molto bello da dire, perché parlare di statistiche, dire è verità in questa maniera è proprio. No, vabbè, comunque sia, ecco, fondamentalmente il problema di questo articolo era che si poteva concludere con questo scambio che abbiamo appena fatto, invece ha continuato, diciamo, per più e più pagine, citando tra altro nomi noti, diciamo, esempio del movimento Occupy Wall Street, eccetera eccetera, ma non ci ha detto, insomma, chi è che effettivamente la comanda. No, io infatti mi aspettavo fosse un articolo che parlava più di chi ha investito soldi in cosa, facendo una specie di mappa, diciamo, di chi ha buttato un sacco di soldi nell'intelligenza artificiale, quindi tendenzialmente sono quelli che comandano l'intelligenza artificiale. In realtà si parla molto poco, cioè si fanno dei grossi nomi, qualche esempio, però niente di troppo specifico, non ci sono dati, sì, nel senso che ci sono pochissime cifre. Solo di scienze sociali, ovviamente. Cioè, si fa sempre l'esempio, cioè si fa sempre, non noi, ma ho visto di frequente, tipo l'esempio, no, cioè sul fatto che, ad esempio, non ricordo bene il motivo, però in generale si tende a usare come esempio di quanto l'intelligenza artificiale sia sbagliata l'esempio della droga e delle comunità afroamericane negli Stati Uniti, in cui si fa, cioè il dato è che sembra da certe analisi statistiche che tutti gli afroamericani negli Stati Uniti siano dei drogati, proprio nello stereotipo classico, ecco, del cannato in un certo senso americano. E viene sempre usato quell'esempio là, e in genere si applica sempre alle scienze sociali. Questo, secondo me, ha l'impatto che uno tende ad associare la malafede in questi processi a fondamentalmente delle autorità solo governative, non tecnocratiche. Cioè è difficile, l'associano di meno con questi esempi, che ne so, alle grandi compagnie che effettivamente poi invece ci investono e ci sviluppano tecnologie. Cioè molto di meno, ad esempio, su queste altre cose. Vabbè, però questa è la mia considerazione, ecco. E poi casualmente in queste settimane è uscito anche la notizia che la Microsoft e altri big sì, delle grandi corporation sono andati in udienza dal Papa, sì, sostanzialmente, sì, sì. Hanno fatto questo brainstorming su la visione sostanzialmente critica approvata dalla Chiesa Cattolica dell'intelligenza artificiale. Ma no, ma più che critica, era proprio una visione condivisa. Mettiamoci d'accordo. Sì, no, proprio sì, esatto, convergiamo in questa tecnologia umanizzata quindi seguirà. Dobbiamo capire, la Microsoft sostanzialmente sposa l'ideologia cattolica. Fondamentalmente, cioè, evidentemente sì. Perché non è andato dal Dalai Lama o che ne so, da qualche guru dell'Islam, no, guru dell'Islam, no, guru dell'Islam non va bene. E insomma, da... vabbè, dai, ma perché no? Chi lo sa? Vabbè, comunque non è andato da, insomma, da altre religioni, ma si è rifatto principalmente alla Chiesa romana. Eh sì. Forte. Vabbè, sì, no, è molto forte, sì. Però tra l'altro la cosa interessante, vabbè, interessante, forse è la più intuitiva, però l'invito è partito proprio dal Papa, cioè dal Vaticano, che ha scritto un sacco di roba di recente sulla tecnologia, proprio tantissime cose. Tra l'altro ha un sito bellissimo, sembra il menu di Age of Empires, tipo, è spettacolare il sito del Vaticano. Però hanno scritto un sacco di roba e quindi hanno iniziato a fare questa video. Dovrebbe essere, è stata la settimana scorsa, la prima di questi incontri tra il Vaticano e IBM e Microsoft, fondamentalmente. Ora vediamo se si aggiungerà qualche altro colosso in questo, sì, Pantheon di, sembra American Gods, tipo, no? Che si va, mettiamo un pezzettino di musica, poi si cambia completamente argomento. Sì. In realtà torniamo alle cose più noiose di T-Security che si fa di solito così. Il prossimo pezzo lo vogliamo introdurre? Ma cioè, guarda, chi, in chi verità, sa geografi... chi sono in Nuvola Blu? Soltanto vabbè, no, noi, due. Noi due, mi sa. Esatto. Però geograficamente ti spetta te, credo. Non, sì, sì, perché sono di Ivrea. Okay. Ivrea sono più vicino io. Sì. Più vicino a te, dai. Sono più vicino io. Sì, sì, sì. E erano un gruppo che a me piaceva molto nei metà anni 90, circa, quando ero giovane sostanzialmente. No, io ero molto più giovane, però l'ho ascoltato a posteriori. Infatti tu l'album che hai messo te è il secondo o il terzo. Qua, no, questo qua che stiamo per ascoltare è quello in effetti è stato fatto dopo. Esatto, io mi ricordavo quelli prima, invece, quelli di Vivere la Luna, così. Invece no, adesso ascolteremo Occhi Rossi a colazione. Yeah. We'll be right back. eccoci di ritorno. Allora, si è detto che ora cambiamo completamente argomento, sì, e torniamo a parlare della noiosissima IT security. E un po' di cose frivole, vai. E un po' di cose frivole. Io la settimana scorsa, che ho zompato la puntata, avevo letto però un articolo interessante su una vicenda. Ovviamente pare che un tot di quelle che vengono definite advanced persistent threat, cioè delle sostanzialmente di infrastrutture che conducono a attacchi continuativi sull'internet, e in particolare la 33, la 34 e la 39, perché le numerano così, e che pare sempre che si riferiscono a diciamo forze in qualche modo filogovernative iraniane, come molti degli advanced persistent threat di solito sono in realtà degli, quelli che definiscono gli attori statali, cioè molto state spesso sponsor. Sono, sì, sono po', cioè sono... Vabbè, fa molto militare come sigla, in effetti, sto qua... Advanced Persistent Threat, sì. No, sì, con una numerazione no progressiva. Quella in realtà, mi sa che le fanno più i tipi degli antivirus, vabbè, che non, non potendo attribuire, quando trovano una specie di pattern nell'azione, lo numerano. Progressivamente, uno, sì. Due, tre, cioè. Vabbè, sì. E quando riescono a riferire tutta una stessa infrastruttura, la numerano, dicono questa è la 33, questa è la 34, eccetera, eccetera. E, ebbene, cosa hanno combinato? Hanno combinato una cosa abbastanza furbetta e intelligente, cioè sostanzialmente si sono andati a studiare o a ricercare vulnerabilità nelle maggiori, diciamo, accrocchi, apparecchietti per fare concentratori di VPN, e tra questi i nomi, quelli famosi in quest'ambito, cioè tipo c'è Pulse Secure Connect, quella Palo Alto Global Protect, Fortinet, Citrix, che sono un po' in realtà a livello aziendale quello che trovi di solito per fare le VPN. Poi ci sono chiaramente tutta una serie di strutture più meno enterprise che magari utilizzano OpenVPN, che infatti se la sono svangata. Invece questi che utilizzano queste cose costosissime sostanzialmente sono stati vittime di questi attacchi, ed è molto interessante perché normalmente la VPN come punto d'accesso alla rete è abbastanza critico, perché uno perché mette su una VPN? Essenzialmente di solito per esporre, o meglio per non esporre, ma per poter raggiungere dall'esterno dei servizi sulla rete interna. Quindi normalmente tutto quello che trovi al di là della VPN è parecchio riservato, cioè è quasi peggio, ma molto peggio, che ne so, che se io ti bucassi, che ne so, il web server, perché magari il web server sta in una zona ben determinata, tipo una DMZ, una roba dove sì, alla fine magari ti buco, però tu alla fine quell'infrastruttura era pubblica, perché avevi esposto un web server, magari avevi anche dei servizi riservati, certo, però comunque di solito uno dà per scontato che il web server è esposto. La VPN invece è la parte che dovrebbe introdurti a risorse in qualche modo private, sì. E quindi è una roba abbastanza furbetta. Una cosa interessante è che loro non hanno utilizzato degli zero day, delle cose, ma hanno semplicemente sono andati a ricercare delle vulnerabilità che erano già uscite, ma per le quali non esisteva un exploit pubblico, non esisteva un proof of concept, e quindi rientravano in quello che è di solito definito il mercato dei one day. One day significa... che non vuol dire veramente solo, cioè non vuol dire veramente proprio un giorno, cioè non è che è uscita la vulnerabilità e il giorno dopo loro l'hanno fatto, però c'è un tempo intermedio. Va a delineare teoricamente tutte quelle vulnerabilità che dal momento in cui vengono annunciate, ma non spiegate nel dettaglio, non con un proof of concept, rimangono lì. E quindi se tu in un breve lasso di tempo riesci a costruirti un exploit funzionante, probabilmente puoi contare su tutti quelli che non hanno ancora patchato, che normalmente sono tanti, perché un po' in tutte le infrastrutture comunque il patchare una cosa implica uno che tu hai una figura che continuamente svolge questo lavoro, che non è così in molte infrastrutture, perché magari il sistemista è diviso tra molti compiti e non è che corre magari subito, perché il servizio nel momento in cui c'è una vulnerabilità di sicurezza non è detto che sia rotto, magari continua a funzionare, e anzi potrebbe essere difficile anche mettere la patch, se ad esempio la patch richiede, che ne so, riavvii o comunque cambi di versione che poi creano incompatibilità nel caso delle VPN ad esempio con i client, e quindi uno tende a posticipare il problema. E quindi sfruttando appunto queste vulnerabilità hanno fatto su un bel paciocco, pare, nell'articolo... Per 3 anni l'hanno fatto, no? Ho visto sì, per un bel tanto tempo. Però all'incirca, nel senso che la prima vulnerabilità sfruttato era del 2018, quindi tendenzialmente è un po' che pacioccano su queste cose. Non si sa bene tendenzialmente la portata della cosa, cioè nel senso che si pare che sia grosso, però non è dimensionata. È un'infrastruttura che a vedere più o meno dall'articolo sembra comunque quantomeno elaborata, penso che hanno un sacco di cosine. Hanno tutte le cose classiche di questo tipo di infrastrutture, cioè che ne so, il canale di command and control, che è quello con cui io live magari posso andare a dire cosa voglio fare all'interno della rete che ho bucato. Hanno tutta una serie di robe per che ne so, tirare fuori le informazioni, hanno una serie di cose per il mascheramento, hanno una serie di servizi appositamente backdoorati da sostituire magari i servizi originali, cioè insomma se l'hanno studiata abbastanza bene. E quindi niente, questa era la notiziola della settimana, di 2 settimane fa. Noi la diamo in ritardo, però tanto non penso che ci sia stato. No, non penso. L'hanno fatto per 3 anni che lo fanno, sì, per 3 anni, settimana. Infatti, non è che è un problema. Poi ne abbiamo anche un'altra. Questa invece più elettrotecnica. Questa è più elettrotecnica e anche più interessante. Ma no, non è sì, perché questa è fantascienza. Allora, in pratica, di recente è venuto fuori. Da più articoli, in pratica, che cioè, a dire il vero, no, i microfoni è una cosa nota di fisica, cioè che i microfoni hanno delle non linearità. Le non linearità cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno ci parla e parlandoci mette delle frequenze nello spettro udibile, il microfono legge queste frequenze, ma a sua volta riemette in maniera bassissima delle frequenze altissime. Tipo degli ultrasuoni, che quindi noi non risentiamo. Dei fulminati fondamentalmente hanno provato a fare l'opposto, cioè a sollecitare questi microfoni con delle frequenze specifiche agli ultrasuoni, e sono riusciti a riemettere delle frequenze udibili. Con questo giochino, in pratica, sono riusciti di recente a fondamentalmente a comandare dei Alexa, dei Siri, degli assistenti vocali emettendo degli ultrasuoni. Fondamentalmente, quindi, sfruttando le non linearità di questi degli oggetti che sono in tutti questi device, che in genere sono microfonini MEMS, quindi che sono molto piccoli e che funzionano molto bene nello spettro udibile delle frequenze, ma sono molto più non lineari fuori da questo spettro. Quindi questo meccanismo di sollecitare cose che non senti per far credere al microfono che ne sta sentendo altre, fondamentalmente, funziona particolarmente bene, in particolare mi pare con Siri. Forte. Vedi, questa è magia. Visto. Cioè, questa è magia, perché non lo vedi e succedono le cose. Sì, l'hanno fatto, tra l'altro, proprio per fare la versione proprio Mission Impossible, usare e fare con gli oscillatori, tipo i vibratori proprio. Perché ho visto... sì, esatto, quello era il suono giusto. Fondamentalmente sono dei oscillatori tipo piezoelettrici che vengono attaccati sui tavoli e iniziano a vibrare, fanno delle vibrazioni minuscole che creano degli ultrasuoni che riescono a controllare la tua Alexa personale. Bellissimo. Beh sì, hai visto. È fantastico. E io metterei un pezzo adesso, un pezzo udibile, ora nello spettro udibile. Sì, no, lo sentirete. Vuoi introdurlo? Vuoi fare della polemica gratuita? La dico io che l'inglese, non la dici a te. Te sei più del nord. Vabbè, la dico io. Mettiamo i Randy Jewels con Thursday in the Danger Room, e la mettiamo fondamentalmente perché a breve ci sarà il concerto dei Rage Against the Machine. Il cantante partecipa col gruppo che stiamo per mettervi, e quindi ascoltatevi questo pezzo, ma non andate alla riunione dei Rage Against the Machine perché costerà tantissimo e sareste veramente degli idioti. Wrongs is clearly not life design. Figure out quickly that nothing gets answered when you ask the universe why. Life is a journey, to live is the worry, to love is to lose your damn mind. To live is the blessing, so I'm not stressing, cause some of my friends ain't survived. That's the release, but a much bigger piece is the living on limited time. Like how do you look in the eyes of a friend and not cry when you know that they're dying? And how do you feel about yourself when you notice sometimes you had wished they were gone? Not because you didn't love them, but just because you felt too weak to be strong. You couldn't bear to see someone who prided themselves on the strength to feel weak. The cruelty of randomness holding for ransom their life and their fate and their dreams. You see that they're fighting and know that they're losing, but still you make jokes and you laugh. Cause you know despite all the sadness that you better get the good times while they last. Now every new word that they speak you are already feeling like it's in the past. And when they are gone you just try to move on cause the memory's hurting too bad. Grown up so much and I wonder who you'd have become if you stuck for a while. Just know that I love you, your brain ain't forget you. Now when I remember I smile. And I guess I say I see you soon, I see you soon. But the truth is that I see you now, I see you now. Still talk to you like you're around, like you're around. And I guess I say you left too soon, you left too soon. But the truth is that you never left, you never left. Cause I'll never let myself forget, never forget. So we stumble blind through depths of the dog, looking for something divine. Life is a journey, to live is to suffer, and I have been suffering through mine. But living's a blessing, so I ain't no stressing, cause some of my niggas ain't rhyme. And he got no drama, but his baby mama is still on my line and she crying. I search for the words to give her some comfort, but her soul and spirit in mind. I tell her that it'll be fine, but deep down I know that I'm lying. The family came to wait in his chain, the bank took the house and the ride. The only thing left was his child. And she had a smile in his eyes. So much to the soul when the grandmama kept her, she look at her sometime and cry. The very next day she cried, and day after day she cried. Then called baby mama and told her I'm sorry, can't keep her no more, I have tried. No killer was captured, but I know he listened, so I'd like to tell you a song. The streets was a jungle, I pray that you made it, I hope that you righted your wrongs. I hope that you learn, I hope that you change, so your mama won't know this pain. So my homie's name will mean something more than a nigga got killed for a chain. I guess I say I see you soon, but the truth is that I see you now, I see you now. Still talk to you like you're around, like you're around. Hey. But I guess I say you left too soon, you left too soon. But the truth is that you never left, you never left. Cause I'll never let myself forget, never forget. Rieccoci qua. Come chiudiamo questa puntata? La chiuderemo con due recensioni di libri, uno e mezzo, e anche la lettura di un prossimo appuntamento che abbiamo già ribadito in realtà in una delle vecchie puntate, però. Ci teniamo, visto che è uscito un aggiornamento, a rinverdire la cosa. Dunque, la prima recensione è un libro che presenteremo come E-Club If Do il 24 marzo in quel della Polveriera, dal titolo Etica Hacker e Anarcocapitalismo. È un libro del collettivo Ippolita, uscito un po' di tempo fa, però è comunque sempre interessante. In realtà è una raccolta di saggi che tenta un po' di definire e spiegare questa corrente capitalista e in che modo si intreccia, visto che ora brevemente, se siete curiosi di capire che cos'è, potete cercare. Esistono dei pazzi, questi sono dei pazzi italiani, che hanno anche un sito, si chiama www.movimentolibertario.it.org, cavolo, non me lo ricordo. Comunque loro sono, diciamo, l'ala ufficiale degli anarcocapitalisti, cioè di quelli che credono in questa cosa in Italia, e lì vi spiegano proprio, se guardate nel loro sitarello ci sono tutte cose e c'è anche spiegato bene la genesi filosofica e tutto quanto, cioè come loro si inseriscono all'interno del pensiero liberale, fondamentalmente ripigliano quel modo americano di usare il termine libertarian, che in America, da noi libertario di solito è qualcosa che si riferisce, sì, ma poi si riferisce, almeno nel mio immaginario, a qualcosa che ha a che fare con, comunque, è posizionato a sinistra. Cioè il libertario è un anarchico, però in qualche modo, che io riferisco alla tradizione, in qualche modo, del pensiero socialista. In America non è così, perché è un termine molto più generico, e quindi ci sono anche i libertari di destra, i libertariani, cioè non si riesce a rendere bene il termine, no, però, perché loro lo usano proprio così, cioè sì, right, aspetta, libertarian tipo... sono i Tea Party sostanzialmente. Boh, io in effetti, sì, sì, libertarian, però in effetti in generale nel mondo anglosassone è più di essere di destra. Cioè, ad esempio, i movimenti che noi intendiamo libertari si autodefiniscono anarchici da quelle parti, in genere, no? Eh sì, perché c'è grossa confusione. Ma sì, ma lui pensa, vabbè, sì, in generale, ad esempio, per noi non c'è differenza, ma per loro sì, tra liberty e freedom. Mm. Cioè, come concetto, ad esempio, freedom è una roba più di sinistra, proprio libero, cioè dall'oppressione, liberty è libero di fare il cazzo che ti pare. È un loro po', puntano molto, cioè, su... cioè, la cosa ambigua che si capisce bene nel libro è che in realtà per molte, per alcune cose, sostanzialmente hanno dei punti in comune. No, nel senso che loro si fanno al pensiero liberale, quindi per loro essenzialmente tutto parte dal libero mercato. Il libero mercato completamente slegato dal controllo statale. In questa cosa qua sostanzialmente sono gente piuttosto strana, ad esempio, che si rivendica o si difende, che ne so, l'evasione fiscale, che a me porta un cazzo, cioè, però comunque è particolare. Ad esempio molti sono anche antiproibizionisti, perché allo stesso modo non vogliono che lo Stato intervenga nell'antiproibizionismo delle sostanze. Sì, vabbè, però perché lo trovi strano? Perché non è classico di un pensiero di destra. Cioè, il pensiero di destra che ho in mente io è il pensiero del tipo più perbenista. Anche della destra liberale? No, la destra liberale no. Cioè, appunto. Cioè, no, io ad esempio, cioè, non li cioè il viscido anche lo ritrovo come comportamento, no? L'aggirare un concetto bello come quello della libertà per... Perché loro sostanzialmente lo... Detta retorica bassissima. Cioè, no? È interessante l'approccio alla cosa, no? Perché cosa regola i rapporti umani, no? Per loro tendenzialmente l'individuo è essenzialmente qualcosa, cioè è un'entità composta di bisogni che deve soddisfare, e ogni cosa che muove l'individuo è legata al soddisfacimento di questi bisogni. Che cosa regola però i rapporti tra gli individui se le leggi non vanno bene, perché lo Stato non ci deve essere? Tendenzialmente per loro quello che è la base del libero mercato, cioè la concorrenza. E come si svoltano, che ne so, la parte delle cose pubbliche, cioè per dire la cultura, i musei, cioè se sono tutti privati, no? In che modo garantisci l'accesso? Essenzialmente per uno sforzo clienti super ricchi? Del privato, sì, dei super ricchi, che hanno comunque un interesse o nel meccanismo di libera concorrenza, nel senso che se io metto un museo troppo caro, cioè mi ci viene meno gente, quindi abbasso il prezzo, o anche hanno un interesse nei termini di riscontro di... Fama? Sì, di fama, cioè, mecenatismo. O di... Mecenatismo, sì, mecenatismo è... E la stessa cosa vale, che ne so, per quando si parla di salute pubblica, no? di ospedali. Cioè, comunque, o si rientra nel meccanismo dame di carità, cioè... però non è così strano se noi analizziamo, che ne so, i grossi, no? I big, tipo un Bill Gates, visto che prima avevo detto Microsoft. Cioè, Bill Gates. Cioè, Bill Gates dà un sacco di soldi, ma tanti, per questi progetti, no? Per la fame nel mondo, sì, sì. Per queste cose qua. Perché lui intanto ne ha tanti, e però è strano, no? Per questa costruzione del mondo, basata essenzialmente sul fatto che i tanti devono dipendere dal benessere dei pochi, sì, sì, anche per il proprio benessere, e senza nessuna garanzia. Perché, cioè, Bill Gates adesso i soldi li dà, no? Ammesso che bastino per risolvere tutti i nostri problemi. Ma non è che lui è obbligato. Lui potrebbe anche decidere che non ce li dà. Vabbè, però, quindi come fai a dare un futuro al mondo in questa maniera? Cioè, è strano, perché... questa qui è una domanda che ovviamente ha un'unica risposta. Non c'è può. Futuro, no? Non c'è, esatto, futuro. No, beh, chiaro. Però, insomma, penso sia la premessa di tutta la redazione di Radio Wombat. No, scherzo. Però, fondamentalmente, però, pensaci anche con quello che dicevamo proprio all'inizio della puntata, in questa maniera, cioè, con queste azioni di washing, che può essere green, che può essere di qui o di là, cioè, ti arroghi il diritto di creare dei monopoli più grandi, no? Di struttura. Cioè, appunto, ad esempio, citavano... Te con la beneficenza ti ritrovi, ok, magari... Lui darà via una quota anche in effetti sostanziale del suo stipendio, del suo introito annuale. Vabbè, però... tanto poi se no li pagano in tasse. Sì, esatto. Cioè, nel senso che almeno così se li scarica. Mega di cioè, si fa anche un figurone, scusa. Vabbè, ecco. Sì, fantoziano, bellissimo. Cioè, sì, no, vabbè, sì, stavo dicendo una cosa seria, però mi hai fatto pensare a Fantozzi. No, no, vabbè, niente. Comunque, cioè, nel libro è citato anche questa cosa interessante del fondatore di PayPal, che lui aveva come base nella fondare PayPal proprio l'idea di scalzare i monopoli delle grosse banche e quindi di liberare in qualche modo il capitale. Vabbè, ma anche quelli e delle la sigarette... cosa interessante è che lui è anche un altro personaggio che ha buttato un sacco di soldi in Facebook e l'ottica in cui buttava i soldi in Facebook era... così la metteva lui, perché secondo lui è importante che si possano creare delle comunità che siano oltre i limiti dello Stato-Nazione. Cioè, è una ripresa, capito, dal loro punto di vista, cioè è così che ti fottono, dell'internazionalismo alla fine. Però tu, quando uno ti dice così, che cosa gli puoi dire? È interessante, come tutti i vari partiti pirata, no? Cioè, che sono per la pirateria, cioè la diffusione. Vabbè, no. Di tutto su internet. Un sacco di cose. Ora, no, dire, ne puoi dire, cioè, tante, è ecco, vero. Però sì. Comunque è spiazzante il fatto che ti dicano delle robe o che comunque facciano delle cose. Ma no, io lo vedo più logico. Cioè, io lo vedo logico nella misura in cui viviamo in un mondo proprio grottescamente capitalista. Non capitalista, proprio in una maniera incredibile in cui i soldi e comunque sia il capitale hanno... cioè sono diventati, hanno come nemico lo Stato, cioè nel senso secondo me anzi c'è una logica abbastanza, cioè ci sta, lo vedo proprio che i loro nemici non sono più magari... Però ad esempio loro sono contrari al controllo statale. Eh beh, certo. Però hanno costruito, hanno tanti soldi a Facebook, un controllo che è più grosso del controllo statale, ma in mano a un'azienda. Ma quella è politica, ma politica nel senso... Da gossip, nel senso di ti do questo per ti do quest'altro, e cioè la politica insomma dei governanti, ma in un certo senso sì, cioè, hanno dei patrimoni che sono equiparabili a quelli di uno Stato, cioè nel senso non sono, diciamo, ecco, attori dello stesso calibro, ecco, quindi cioè, il gioco è diverso, è proprio uno scommettere ti do questo per ti do quest'altro. Comunque, se volete continuare a parlare di queste cose con noi, ci venerdì 24 marzo in quel della polveriera verrà presentato a... ho detto una cazzata, ho continuato a dire 24 marzo più o meno. No, non l'ultima volta e basta. Mi sa che la facciamo il 24 aprile. Sì. È venerdì 24 aprile, non 24. Ma no, non venite. No, il 24 marzo no, non venite. No, cioè, non venite. Magari... Ah, magari non è neanche venerdì, cioè per dire. No, boh, in effetti no. L'altro libro invece che mi hanno regalato e ho letto è un libro di Carola Frediani dal titolo Cybercrime e sono praticamente una raccolta un po' espansa di suoi studi e articoletti che trattano alcune vicende. Io mi sono letto bene soltanto la prima, in realtà, che è la storiella di WannaCry, ben ricostruita. È una storia molto interessante. Il libro è sciccoso nell'edizione, secondo me, perché gli hanno fatto questa copertina verde e dentro c'ha delle pagine verdi e poi tutto il resto è bianco, però ogni tanto c'è una pagina completamente verde e dà proprio quest'idea di terminale a caratteri, capito? Quello lì proprio del... No, io sono un po' contrario a queste cose, Cioè il libro deve essere proprio carta ottocentesca. No, e questo non lo è. Tra l'altro è stampato anche da una casa editrice abbastanza patinata, la Epli. E l'hai anche pronunciato, ridimmelo, scusa? Epli. Bravissimo. Lei è una giornalista abbastanza nota perché ha scritto anche su Anonymous, insomma, non è di solito è una di quelle che scrive informata, cioè ha questo pregio che rispetto ad altri giornalisti che di solito danno o copiano o cercano di spiegare quello che non hanno capito, lei quantomeno ha un'ottima capacità di indagine. Quindi, ad esempio, anche la vicenda di WannaCry è ricostruita proprio bene. Quella dopo, invece, che è più è legata alla vicenda delle elezioni americane e di tutta la questione del pirataggio del Partito Democratico, queste robe qua. Okay. Cioè, il Partito Democratico è giusto? No. È nostro il Partito Democratico. No, che cazzo dici? Dei democratici? No, beh... Va bene? Ok, vado bene. Cioè, no, hai detto bene. Ho detto bene? Sì, ok, sì, perfetto. Cioè, no, perché mi viene sempre da sudare che quando parlo sì, di questi, era Veltroni di questi qua, posti Obama, oltre oceano che non ho mai visto e non vedrò mai. E vabbè, insomma, lì la vicenda, ma secondo me non tanto per colpa sua, ma perché proprio non si capiva un cazzo del significato di questa cosa, era tutto intrecciato, era tutto molto caotico. E il secondo saggio, secondo me, la seconda ricostruzione è un po' meno riuscita della prima. Invece, già solo per quello di WannaCry, il libro merita quantomeno di essere preso in biblioteca. E poi vogliamo leggere questo appuntamento e poi chiudere la puntata? Ma sì, dai. Cioè, perché dopo i consigli per la lettura, secondo me, c'è l'appuntamento e poi basta. Ma sì, poi lunedì, dai. Sì, sono anche le 11:15. Cioè, non è che già siamo stati bravi, mi sembra. E vabbè, lo leggo io, lo vuoi leggere te? L'accrocchio è stato annunciato. Vuoi sbrodolare per 10 minuti o 2 ore la tua malsana idea? Stai progettando la rivoluzione in HTML o C++? Stai sublimando la tua libido nel do-it-yourself lisergico? Portaci il tuo feticcio indomabile, che sia il tuo progettino della domenica o il piano segreto per conquistare il mondo della cantina. Troverai le persone giuste che dilapiranno le proprie ore salariate per contribuire al tuo delirio personale e far trionfare l'accrocchio sul prodotto... dell'etica protestante capitalista. È tutto preciso. Sì, ma mi si che sta cosa stringendo... non ti è chiaro in etica protestante capitalista? No, non ci leggo un cazzo nello schermo. E lo so perché te lo sto allargando e stringendo. Esatto. Perché una società che obbliga all'eccellenza a scegliere di fare schifo alla merda è un gesto rivoluzionario o era un dovere? Boh, vabbè. Comunque sia, saluti Sabaudi e Sabaudi, quindi... perché stiamo parlando di Accrocchio a Torino. Hanno fatto anche il sito accrocchio.org. Non ho neanche guardato, non ci ho neanche cliccato su questa sì cosa. No, io sì oggi. E sì, lo trovate anche su ganciocisti.org, che sono i gemellini di progetto. Anche noi avevamo un progetto che si chiamava la punta.org. sì. Che in questi giorni ha avuto un pochino di problemi. Coronavirus, ecco. È in quarantena. In quarantena, sì. Primo caso, sì. Dopo i cani, i gatti, le persone è passato che lo ai più server, volte, è passato ai server, e sì, non esatto. So se l'è preso. Sì, esatto. Sì. Però ci ha risposto in maniera molto tranquilla, dicendoci: no, state tranquilli, io sto qua. Comunque, insomma, è 5 giorni che la macchina si è rotta, e abbiate fiducia. può darsi che torneremo. Citazione questa, però. Già. Va bene, allora cosa abbiamo, facciamo adesso? Dai, salutiamo. Salutiamo e con cosa chiudiamo? Chiudiamo con... Ah sì, un pezzo di Kate Tempest che si chiama Lonely Days. Kate Tempest è una rappusa britannica molto molto forte. Ciao! A dream, grew up in a city where you master your pain or you end up numb, no feeling. Becky is a young woman, heart full of earth, eyes full of mourning, spent without sleeping. Grew up in a city where it's hard to be heard and nothing really has much meaning. Pete had his heart broke once, he never fixed it. Sits there in his chest with his arms crossed through it. Becky had a heart broke twice, she won't risk it again. She don't wanna see her heart get ruined. And now she's on her way to wash up and take the orders for spaghetti at Giuseppe's, the cafe on the corner. She did the night shift too, and Matthew's at the sauna. She's putting herself through uni, it's hard work. But will it be this way forever? These are lonely days. What if she could be the one that makes it better? He looks away, can't hold her gaze. But will it be this way forever? These are stressful times. What if he could be the one that gets her? She looks away, she's petrified. Now have you thought about retail? Yes, fine with me. Oh, and I can see here that you have a degree. Yes, says Pete, and international relations. Great, let's see if Primark has space for a placement. Becky clears up from the lunch rush, crushed by the blank eyes. Impolite customers frosting their damp fives into a palm. She thinks there ain't no harm in being civil, though, is there? He folds up his job form, gets up from his chair. The next person sits down with a similar air of dejection. He walks out, heads in the direction of the cafe on the corner for a coffee and some headroom. This guy comes in, the first customer to close the door behind him. For that alone, she likes him. He sits at the table by the window, reading, half smiling. His hair's messy and his eyes are shining. Can't think what to say, he just stares blankly. Picks up his change, fiddles with his spoon. And as he leaves the cafe, he's consumed with force of her. Wishing that he got up the guts to try and talk to her. Will it be this way forever? These are lonely days. What if she could be the one that makes it better? He looks away, can't hold her gaze. And will it be this way forever? These are stressful times. She flirt with anyone, scream at the top of her voice. But it's her birthday, so Becky don't really have a choice. He sees her in the queue, he doesn't know what to do. She's more beautiful than he remembers. Then she says, all right. And he tries to say something funny but stutters, and now he feels like a muffin flush. Inside it's the usual scene. They're dancing at the bar, waiting to get served. Becky's mate screaming about something absurd, and they're all fake laughing, even though nobody heard. So now he's hunting around the room, staring into every booth. The back of every head could be hers, it's no use. He stops by the bar, thinking man, he'll never find her. And then he realizes that he's standing beside her. He stands there awkward, his eyes are as loud as the bass. And she can recognize something in his face. She scribbles down a number, lingering glance. And she lets herself think, maybe this could be her chance.